giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Presidente Mattarella ha inaugurato in Ghana l'Academy di Confindustria Alto Adriatico che formerà operai per il Friuli Venezia Giulia. Una ventina di studenti dell'Istituto Zanon di Udine sono rimasti vittime di un'intossicazione alimentare mentre erano di ritorno da una gita scolastica compiuta in Toscana. Per quattro di loro necessario il ricovero in ospedale. I vigili del fuoco di Pordenone sono ancora impegnati nel recupero di due alpinisti in difficoltà al campanile di Val Montanaia in Val Cimogliana, a circa 2000 metri di altezza. I vivai di Raucedo al traguardo dei 90 anni con 80 milioni di barbatelle commercializzate annualmente in tutto il mondo. A Trieste il Festival Sportin per avviare le persone con disabilità alle attività sportive, testimonial alcuni campioni paralimpici. Le nuove tendenze del fitness in vetrina a Lignano, obiettivo stare bene, restare in forma attraverso lo svolgimento regolare di un'attività fisica. Basket Serie A2 nell'anticipo dell'ottava giornata della fase orologio, la Pallacanestro Trieste ha perso in trasferta contro Trapani per 81-73. Ancora una vittoria invece per la Gesteco Cividale che a Milano ha battuto l'Urania per 94-92 con un finale a cardiopalma. Oggi la Pudine di scena sul parquet di Casal Monferrato. Le 8:31 minuti e 30 secondi, buona domenica da Giorgio Bearz e Maria Spezia in studio a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prima di cominciare diamo come sempre uno sguardo alla situazione meteo e alle previsioni per oggi 7 aprile, ricordando la giornata di gran caldo di ieri anche in montagna con la temperatura record per il periodo di 24 gradi e mezzo registrata a Fusine. Il cielo è da poco nuvoloso a coperto su pianure e costa, variabile in montagna, le temperature registrate alle 7 a Trieste 12 gradi e mezzo, a Pordenone 13, a Gorizia 11, a Udine 10 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 7, Forni di Sopra 8, Tarvisio 4 gradi e mezzo, Sappada 4, Piancavallo 6 gradi e mezzo, in quota sul Monte Lussari 12 e su Monte Zoncolan 14 gradi, sulla costa Lignano e Grado 14 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, su alta pianura e a ridosso delle prealpi sarà possibile cielo variabile con foschia. Temperature massime in ulteriore aumento, specie in quota e nel fondo valle tarvisiano, dove i valori saranno ancora molto al di sopra della media del periodo, 20 a regime di brezza. Una nuova leggera scossa di terremoto tra la Val Tramontina e la Carnia è stata registrata dai sismografi alle 5:27 di stamattina e ha avuto una magnitudo di 2.3 sulla scala Richter. Epicentro entro 5 km a nord-est di Tramonti di Sopra. Non si segnalano per ora danni a cose o a persone. Ancora cronaca, una ventina di studenti dell'Istituto Zanon di Udine sono rimasti vittime di un'intossicazione alimentare mentre erano di ritorno da una gita scolastica compiuta in Toscana. I giovani che stavano rincasando in treno da Firenze sono stati colti da intensi dolori addominali, oltre che da vomito e problemi intestinali, al punto da dover interrompere il viaggio di rientro alla stazione di Mestre per essere soccorsi sul posto. Per quattro di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. I vigili del fuoco di Pordenone sono ancora impegnati nel recupero di due alpinisti che ieri, intorno alle 21:30, hanno lanciato un segnale di difficoltà mentre si trovavano al campanile di Val Montanaia in Val Cimogliana, circa 2000 metri di altezza, facendo ricorso a un applicativo del telefono. Il messaggio è stato recepito da una sala operativa in Piemonte e ritrasmesso in regione. I pompieri, dopo aver richiesto l'intervento dell'elicottero militare di Casarsa, che però non è riuscito a compiere un atterraggio vicino alla coppia, composta da un uomo e una donna, a causa della scarsa visibilità, hanno dunque attrezzato un campo base al rifugio Pordenone e intrapreso la scalata di 900 metri di dislivello per soccorrere i due con una squadra neve ghiaccio e una squadra del soccorso alpino. I due escursionisti sono stati ritrovati in condizioni di ipotermia. Intorno alle 7 di questa mattina è stato possibile trasportare il primo dei due in condizioni peggiori in ospedale tramite l'elicottero. A momenti dovrebbe essere effettuato il recupero anche del secondo escursionista. In Ghana, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, è stata inaugurata ieri la nuova Accademia ideata da Confindustria Alto Adriatico per formare i lavoratori richiesti dalle imprese del Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato nel corso della sua visita ad Accra, capitale del Ghana, la nuova Academy voluta da Confindustria Alto Adriatico, che ha l'obiettivo di formare manodopera locale con profili professionali ricercati dal tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. La scuola si trova all'interno del centro di formazione Don Bosco, un istituto tecnico professionale dove ogni anno studiano circa 800 ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Lo spirito salesiano, l'altro elemento che desidero sottolineare, per ringraziare l'iniziativa preziosa e lungimirante della Confindustria del nostro Nord-Est, che ha individuato questa formula di straordinaria efficacia per la formazione qui di giovani che aspirano al lavoro, l'addestramento poi nelle industrie del nostro Nord-Est, perché poi i giovani possono decidere se continuare a lavorare in quelle aziende in Italia o investire qui, preparazione conseguita. Il progetto degli industriali prevede la formazione linguistica di 30 giovani che saranno scelti per un percorso di scambio professionale in realtà aziendali del Friuli Venezia Giulia. I primi lavoratori arriveranno entro dicembre e saranno inseriti nelle imprese con contratti di 12 mesi e soluzioni abitative di favore. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Tutti loro verranno inseriti anche in un processo di ulteriore formazione in Academy che creeremo a fianco ai nostri ITS, per cui gli daremo anche tutte quelle competenze dell'ICT, dell'elettronica, del digitale, che serviranno un giorno che questi ragazzi, diventati adulti, potranno venire a spendere per far crescere ancora di più il loro paese. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Gli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia si confrontano con la concorrenza dei TIR dall'est Europa e con la sfida della riduzione delle emissioni di CO2. Ieri a Codroipo, l'assemblea regionale di settore. Da 2.400 a meno di 800 si è ridotto di due terzi in appena 25 anni il numero di imprese artigianali dell'autotrasporto in Friuli Venezia Giulia e il calo prosegue. Se ne è parlato nell'assemblea regionale della categoria del trasporto di Confartigianato a Villa Manin. A pesare anche la concorrenza dell'est Europa, non sempre leale a detta degli operatori. In aggiunta a ciò si denunciano i blocchi e la circolazione imposti dall'Austria. Altro tema caldo, la transizione energetica. Nei prossimi anni si dovrà via via pensionare il classico gasolio, ma i costi per l'adeguamento sono importanti. Per questo sono necessari incentivi. Sergio Lomonte, segretario nazionale Confartigianato Trasporti Servizi. Non ci può essere una sostenibilità ambientale senza una sostenibilità economica dei costi delle imprese. Oggi, per fare un esempio, per acquistare un veicolo elettrico ci vogliono 250.000 euro a fronte di un trattore a propulsione endotermica, quindi ancora a diesel, che ne costa 100-120. L'autotrasporto vuol traguardare la transizione ecologica, bisogna metterlo in condizione di farlo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti a Tercento. Oggi in programma i festeggiamenti per la 47esima edizione della Festa della Patria del Friuli, con cui si celebrano i 947 anni dalla Costituzione dello Stato patriarcale friulano. Le cerimonie inizieranno in Piazza Libertà alle 9.30 con l'alza bandiera della bandiera del Friuli. Alle 9.45 il corteo si muoverà verso il Duomo, dove alle 10 avrà inizio la Santa Messa in friulano. Alle 11 in Piazza Roma, esibizione del gruppo folcloristico Chino Ermacora, e alle 11.30 in Sala Margherita sarà eseguito l'inno del Friuli e data lettura della bolla imperiale. A seguire il tradizionale scambio della bandiera tra il sindaco che ha ospitato la manifestazione l'anno precedente, Capriva del Friuli, e quello ospitante. Dalle 15.30 poi Palazzo Frangipane ospiterà visite guidate. Oggi sono in programma due cerimonie organizzate dall'Associazione Nazionale Partigiani Ampi per commemorare le vittime di due diverse stragi nazifasciste. I 71 ostaggi fucilati per rappresaglia al poligono di Opicina il 3 aprile del 1944 verranno commemorati in una cerimonia che comincia alle 15 nella struttura militare. Parleranno gli storici Jože Pirjevic e Piero Puric. Oggi ricorre anche il 79esimo anniversario della strage compiuta dalle SS di Hitler nell'aprile del 45, in cui furono massacrati 29 partigiani garibaldini e osovani. Per l'occasione è in programma una cerimonia che si terrà a Udine, alle carceri di via Spalato, alle 10, cui parteciperanno la presidente Ampi di Udine Antonella Lestani e il garante per i diritti dei detenuti di Udine Franco Corleone. Prima giornata per la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani 2024, iniziativa in calendario a Pordenone da oggi fino a mercoledì 10 aprile, che coinvolgerà 140 giovani dalla regione, da tutta Italia e anche dall'Europa, con l'obiettivo di coinvolgimento nella vita istituzionale. Tema di questa edizione è la sostenibilità ambientale secondo le modalità dei dibattiti parlamentari parlamentari nelle istituzioni europee, inclusi lavori in commissione e un'assemblea plenaria. I vivai cooperativi di Rauscedo hanno festeggiato i 90 anni di attività. Tradizione e innovazione permettono alle barbatelle, le piantine di vite delle cooperative, di arrivare dal Friuli in tutto il mondo. Da una crisi, l'invasione della filossera che stava devastando la viticoltura europea a inizio Novecento, a una grande opportunità, l'innesto tra le varietà europee e i portainnesti di origine americana. Inizia così la storia dei vivai cooperativi Rauscedo, leader del vivaismo viticolo mondiale, che festeggia il traguardo dei 90 anni, con 80 milioni di barbatelle commercializzate l'anno in tutto il mondo, 200 soci e un fatturato record che nel 2023 ha superato i 105 milioni di euro. Alessandro Leon è presidente dei vivai cooperativi Rauscedo. La chiave è la cooperazione. Cooperazione significa sacrificio, rinunciare a qualcosa oggi per avere tanto domani. All'innovativo centro di ricerca si studia la vita del futuro anche con l'intelligenza artificiale. Rauscedo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi, prima domenica del mese, si rinnova l'appuntamento che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. A Trieste saranno accessibili gratuitamente la Basilica Paleocristiana di Via Madonna del Mare, oltre al museo e al Parco del Castello di Miramare, mentre a Udine l'iniziativa coinvolge il Museo Archeologico Nazionale. Gratuiti per oggi anche il Museo Archeologico e i Fondi Ex Pasqualis di Aquileia, oltre al Museo Archeologico di Cividale e l'area archeologica Villa Romana di Torre di Pordenone. E anche oggi in tutta la regione la manifestazione Castelli Aperti, in cui i proprietari di forti, castelli e dimore del territorio aprono le porte al pubblico. 23 i luoghi visitabili quest'anno. Al villaggio Bell'Italia di Lignano sono in vetrina le nuove tendenze del fitness, con la convention che ha richiamato circa 200 tra istruttori appassionati da Italia e dall'estero. Giuliano Clinori, vicepresidente del Centro Sportivo Educativo Nazionale, che fa parte del Comitato Olimpico Nazionale CONI, annuncia l'evento di nuoto ospitato a maggio e spiega come dopo il Covid la gente stia ritornando in palestra. Dopo il Covid c'è stata un'esplosione, almeno per noi, di attività, ma per le persone, sia per la voglia di tornare a una vita sociale normale, ma la voglia di uscire. Noi abbiamo incrementato i nostri tesserati, penso abbiamo superato i 2,5 milioni di tesserati, che è un numero che non abbiamo mai avuto in passato. Quindi vuol dire che la gente ha voglia di ritornare fuori e grazie allo sport anche di fare, permettere una vita sociale, di stare insieme agli altri. A maggio ci sarà un evento importante, dopo il Festival del Fitness ospiterete un evento molto importante. Sì, abbiamo già avuto il patrocinio del Consiglio dei Ministri, è un evento importante perché è già stato fatto in Friuli una volta, poi doveva essere fatto in Veneto, ma per motivi tecnici e hanno richiesto a noi di riproporlo. Quindi con Special Olympics avremo quasi 500 ragazzi che vengono da tutta Italia per fare i Play the Game, che sono i campionati di nuoto nazionali in attesa dei campionati mondiali a Torino. Quindi è un evento molto importante, pensate che ci saranno quasi 1,000 volontari che verranno, ragazzi delle scuole, a dare una mano. È un evento a cui ci teniamo molto, perché è un evento inclusivo che sta crescendo di anno in anno, sia in Italia ma anche nel resto del mondo. Lignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport calcio. L'Udinese che prepara il posticipo di domani sera contro l'Inter. La squadra bianconera ha svolto ieri una seduta a porte chiuse con focus sul lavoro tattico e palle inattive. Questa mattina la rifinitura che precederà la gara di domani sera contro i nerazzurri. In Serie C la Triestina giocherà allo stadio Tognon di Fontanafredda. Il posticipo serale contro la Virtus Vecon Verona. Fischio d'inizio alle 20:45. Basket in A2 nell'anticipo dell'ottava giornata della fase orologio. La Pallacanestro Trieste cede in trasferta la corazzata Trapani per 81-73. Biancorossi privi di Vildera e Brooks, ma con Candussi in gran forma, per lui 19 punti alla fine. Hanno subito il break decisivo dei padroni di casa nel terzo quarto. Trieste rimane quinta nel girone rosso in posizione playoff. Ancora una vittoria invece per la Gesteco Cividale, che a Milano, trascinata dall'argentino Redivo, autore di 31 punti, ha battuto l'Urania per 94-92 dopo un finale al Cardio Palma. Per i friulani è l'ottava vittoria di fila che li avvicina ai playoff. Questa sera la Pudine sarà di scena alle 18 a Casal Monferrato. Basket femminile di A2, scivolone interno per la futurosa Trieste sconfitta da Ponzano per 49-64. La del Serudine si è imposta invece in trasferta a Bolzano per 61-72. Pallanuoto femminile cede solo nel finale. La Pallanuoto Trieste dà l'addio al sogno di Coppa Italia perdendo contro il plebiscito Padova. Gara di grande equilibrio fino all'ultimo quarto, quando le venete, sfruttando la situazione di superiorità numerica, hanno trovato il rigore del vantaggio decisivo prima di chiudere sul risultato di 8-6. Per le orchette oggi la finale per il terzo posto contro Catania. Pallavolo, la Tinet Prata e il Conser Ravenna si giocheranno tutte le proprie carte alle 18 al Palacosta. Il premio sul piatto, il passaggio alle semifinali promozione della serie A2. In campo femminile la CDA Talmasson sarà impegnata in gara 1 in trasferta contro Messina, già affrontata nella regular season dove il bilancio è in parità. Pallamano, Trieste esce sconfitta dalla trasferta di Bolzano per 31-28 in uno scontro delicato per la salvezza che vede ora i giuliani a un passo dai play-out. Ginnastica ritmica, seconda giornata di gare della Final Six per la formazione della ginnastica ritmica dell'Associazione Sportiva Udinese, ancora oggi impegnata al Pala Gianni Asti di Torino per l'assegnazione dello scudetto di Serie A1. Sono 20 moto e 20 automobili sportive dal 1911 agli anni 70, i partecipanti alla salita dei campioni che oggi prevede l'esposizione di moto e auto storiche a Trieste in Piazza della Borsa dalle 10. Dalle 11.30 in programma il circuito cittadino per il trasferimento dei veicoli alla partenza, la curva dell'università, e alle 12 la sfilata verso il traguardo dell'obelisco e poi al quadrivio di Opicina fino al vecchio casello Anas sulla ex statale 202. Oggi in calendario la 33esima edizione del raduno sci alpinistico del Pradut in concomitanza, si celebrerà anche il 28esimo Memorial Giancarlo Martini in ricordo di una figura storica della disciplina. Sport invernali, ultimo giorno a Sella Nevea del Nevea Drop in Freestyle Days, festival di freeride e freestyle che riceve atleti e spettatori anche da Austria e Slovenia. Oggi apertura dello Snow Park in Conca Prevala a tutti gli appassionati per l'ultima giornata di sfide. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste, leggiamo: formare operai in Ghana, Mattarella, e questa la via, inaugurato dal presidente, il nuovo centro di istruzione professionale di Confindustria Alto Adriatico, un modello per l'Italia, per Agrusti, giornata emozionante. A seguire, lo studio sul tema il grande inverno demografico spopola il nord-est, giù la forza lavoro. Di spalla, €1 milione per le tratte via mare tra Barcole e Muggia. Poi Sistiana, il cavalcavia chiuso per lavori, previsti 4 mesi di stop. Il teatro Rossetti vince il bando sui progetti speciali. Ok al piano di Muggia per i centri estivi, più fondi dal comune. A centropagina poi la fotonotizia, statue e colonne nella piazza sul porto di Tergeste. Per ora è soltanto un'ipotesi che dovrà trovare conferma negli scavi dei prossimi mesi. È probabile che nell'area compresa fra via di Crosada e via dei Capitelli, fino all'anno scorso in uno stato di degrado, sorgesse in età romana un'ampia piazza pubblica abbellita da statue. Apertura sui ristori per il maltempo per il Messaggero Veneto di Udine, che dà conto anche della visita in Ghana di Mattarella, oltre che delle temperature eccessive per il periodo. Spazio poi delle interviste ai sindacalisti della regione in merito alle istanze più importanti da rivolgere ai futuri parlamentari europei, cioè aiuti per la transizione ecologica, una fiscalità più omogenea e una maggiore sicurezza sul lavoro. Fotonotizia per il campo di tulipani di Rive d'Arcano e poi in capocronaca il dibattito sulla nuova ZTL cittadina. Più avanti l'intossicazione degli studenti dello Zanon in gita scolastica. Le due edizioni del Gazzettino aprono sul ricorso ai droni per controllare gli arrivi della rotta balcanica deciso dalla regione. Fotonotizia per Mattarella e poi l'edizione di Udine dà conto delle contrarietà alla proposta della viabilità Sequals Gemona proposta dall'assessore regionale Amirante. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, la crociata del comune contro la ludopatia da tutelare 168 luoghi. Nel 2025 entreranno in vigore i limiti alla diffusione di slot e centri scommesse. Le contromisure rischiano di scontrarsi però con la presenza dei casinò in Slovenia. Di spalla la proposta di Cosma, gestore del bar museo, golf car nel 2025 per salire al castello. L'appello per Go 2025, fare squadra, l'idea del fumetto dedicato alla storia della Dama Bianca. Lavori a Marina Giulia, in tre a processo per furto di sabbia. Nel 2018 un cumulo era stato depositato in area privata. Delle segnalazioni anonime avevano fatto scattare i controlli. Cade da 3 metri mentre potava i rami in giardino, l'incidente in via Giustiniani, condizioni gravi, ma l'uomo non è in pericolo di vita. E poi a centropagina la fotonotizia, Ashikul a casa dopo oltre 2 mesi, il botto, poi il risveglio in ospedale, parla l'operaio ferito a Panzano il 19 gennaio scorso. Intanto la Mannschaft Relax trasloca in un'area operativa. Il Messaggero Veneto di Pordenone apre con la visita in Ghana di Mattarella e poi pubblica un'intervista all'amministratore delegato di Electrolux Professional che parla della strategia aziendale di acquisizione. Capocronaca interno, i problemi di parcheggio in città. Spazio poi a bollette truffaldine giunte ai eredi di una donna deceduta da ricondurre a utenze che non corrispondevano al reale. Il Gazzettino di Pordenone dà conto dell'analisi dei tronchi dei tigli abbattuti all'ex fiera per il cantiere del Polo Giovani, in cui emerge che gli alberi avevano oltre 50 anni, ma in molti casi erano cavi e malati. Da Barcis le contrarietà al progetto di produzione energia alla briglia del Prescudine in un corso d'acqua che scorre nella foresta millenaria, gestita e tutelata dalla regione. Alcuni appuntamenti prima di chiudere: il tenore britannico Ian Bostridge si esibirà con la Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio al Teatro Verdi di Pordenone alle 20.30, in programma musiche barocche, veneziane e napoletane. E in occasione del 79esimo Giro di San Giacomo e della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo è stata organizzata una passeggiata di 4 km con partenza da Prosecco, stazione numero 13, ex mobilificio Lanza, ritrovo alle 9.30. Per il 40esimo anniversario dell'istituzione dell'area protetta della Val Rosandra, in programma conferenze ed escursioni sull'evoluzione della tutela della biodiversità nel territorio, appuntamento al centro visite della riserva naturale della Val Rosandra fino alle 13. Quanto vale un petalo? La camminata meditativa nei boschi di Komen in Slovenia, dedicata alla biodiversità, con ritrovo alle 9.10 sulla strada provinciale numero 6 di Trieste verso Komen, nello spiazzo al bivio per Ternove, spostamento con mezzi propri. Per i programmi radiofonici alle 9.15, prima puntata di Pret-à-porter, originale radiofonico di Elke Burul, per la regia di Stefania De Maria. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone il docufilm La donna longobarda e Monte Lussari, tre popoli sul balcone delle Alpi Giulie. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio di domenica, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beartz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Ora la rubrica Vita nei campi, appuntamento con il GR alle 12.15. A tutti l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.